Lo dichiariamo sia perché c'è stata una dichiarazione del provveditore di Palermo che si è espresso al di là della sanzione, evidenziando, diciamo, che secondo lui l'intervento della professoressa era rivolto direttamente contro Salvini, ma al di là di questo meramente politico, perché non è presente nel codice disciplinare degli insegnanti, di tutti i lavoratori del pubblico impiego, una possibilità di essere sanzionati per omesso controllo sull'attività dei propri studenti. Quindi è evidente che se viene a mancare il motivo della sospensione, quindi per l'avvio di un procedimento disciplinare, è chiaro che questo è stato un semplice segnale, un semplice atto politico che il provveditorato di Palermo ha voluto dare alla politica a pochi giorni dalle elezioni europee, perché sono totalmente assenti qualsiasi presupposto di azione disciplinare. Quindi noi chiediamo la revoca del provvedimento, oltre nel merito, perché la collega non ha assolutamente svolto nessun tipo di attività che potesse portare alla sanzione, ma anche dal punto di vista formale, perché non ci sono gli estremi del procedimento disciplinare. E infatti voi evidenziate anche il fatto che non si trova da nessuna parte nelle motivazioni della sanzione la mancata censura dei propri studenti, ma un riferimento ad un articolo che dice, insomma, di dover vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie possibilità. Personale sottordinato che quindi in questo caso dovrebbero essere gli studenti. Sì, ma non è un personale sottordinato, diciamo, lo studente, a meno che non è questo l'obiettivo a cui si miri nel futuro nella pubblica amministrazione, di trasformare lo studente in un utente subordinato all'insegnante. In realtà questa è una norma che riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione nell'ambito del funzionariato, quindi non si può applicare in nessun modo questo articolo al rapporto fra docente e studente. Quindi è evidentemente un'estremizzazione, diciamo, di un articolo normativo con l'obiettivo esclusivamente, probabilmente, di dare un segnale di appoggio o almeno di vicinanza a determinate parti politiche a pochi giorni delle elezioni. Non a caso ci sorprende la tempistica di come il provvedimento sia stato comminato alla docente appena una settimana dalle elezioni europee, quando probabilmente l'accortezza politica anche dello stesso provveditorato avrebbe potuto portare alla sanzione dopo le elezioni europee. Quindi tutto questo ci fa pensare a un evidente atto politico che per noi è gravissimo, perché naturalmente un atto politico di questo tipo, rispetto a una questione che riguarda la questione del fascismo, del razzismo, della xenofobia, quindi un attacco ai valori invece dell'antifascismo e dell'integrazione, per noi risulta ancora più grave da parte di un'istituzione che dovrebbe rappresentare la scuola, come appunto il Ministero. Un'altra domanda: nella vostra esperienza, diciamo, sindacale all'interno delle scuole, c'è mai stato un precedente, un caso simile a questo? No, di intervento diretto del Ministero sulla didattica, diciamo, quindi sul rapporto studente-docente, non c'è mai stato, diciamo, questo tipo di intervento che noi diciamo a gamba tesa sul rapporto che all'interno della scuola è molto legato anche alle dinamiche interpersonale docente-studente. Ancora di più poi in questo caso, dove poi in queste ore è uscito il video del lavoro fatto dagli studenti, hanno loro stessi confermato che non c'è stato nessun indirizzo da parte della docente, ma è stata una loro libera scelta impostare il lavoro in quel modo, quindi anche in questo senso non si comprende la sanzione da dove dovrebbe provenire, visto che gli studenti hanno liberamente operato una scelta rispetto alla quale probabilmente, se gli fosse stato chiesto probabilmente di modificarla, non l'avrebbero neanche fatto, credendo nel lavoro che hanno fatto, che avevano prodotto. Quindi siamo veramente nel primo caso di intervento da parte del MIUR, perché gli uffici scolastici provinciali sono gli uffici periferici del MIUR, cioè il MIUR entra per la prima volta dentro le scuole e dentro il rapporto studente-docente. Sì, esatto, un po' anche per lo stesso principio di quell'articolo 11 che si citava prima, e quindi della responsabilità nella funzione pubblica del personale sottordinato, in questo caso al MIUR. Sì. E voi avete lanciato anche una petizione che ha già raccolto molte firme e un presidio di solidarietà. Ti chiederei di dirci come sta andando la petizione e quando si terrà il presidio. Allora, il presidio si terrà oggi, ci sarà un primo presidio alla prefettura di Palermo, un presidio simbolico scelto, diciamo, abbiamo deciso di farlo in prefettura anche per evidenziare il rapporto con il Ministero dell'Interno, che è direttamente coinvolto, visto che la figura di Salvini è coinvolta in questa questione, e probabilmente c'è stata un'indicazione chiara anche, diciamo, della politica e del Ministero verso un percorso sanzionatorio verso la docente. Quindi oggi alle 4 saremo a Palermo in presidio. La raccolta firme in appena 24 ore ha raccolto al momento più di 40.000 firme. Noi noi abbiamo già formulato una richiesta di incontro al provveditore di Palermo per mercoledì pomeriggio, puntiamo a raggiungere 100.000 firme e in quell'occasione mercoledì pomeriggio consegneremo simbolicamente le firme al provveditore di Palermo a testimoniare la volontà della società civile, dei docenti, degli studenti che hanno firmato questa petizione, che immediatamente sia revocata la sanzione alla docente, perché non vi è nessun presupposto e siamo di fronte in questo caso veramente a un abuso di potere rispetto, diciamo, alle funzioni che appartengono al provveditorato di Palermo.